Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che quotidianamente vi accompagna la mattina in replica alle 20:45 nei vostri percorsi di vita. Di cosa parliamo? Ma ormai lo sapete, parliamo di violazioni di diritti, di abusi, di soprusi, di truffe, insomma tutto ciò che è lesione di un diritto o anche lesione, forse direi soprattutto, della dignità umana. E sì, perché il caso che tratteremo oggi è un caso, a mio giudizio, eclatante, che lascia perplessi, se vogliamo, anche molti dubbi aperti. Ve lo leggo, questo titolo, dalla cronaca di Firenze della Nazione di alcuni giorni fa. Il titolo della Nazione recita: filmava le pazienti in studio, assolto perché manca la legge. Dico in due parole di cosa si tratta. Di un medico fiorentino, 50 anni circa, noi non sappiamo il nome di questo medico, giustamente perché è tutelato dalla privacy. La privacy che però lui violava costantemente perché filmava le sue pazienti, insomma un vizietto voyeuristico. È stato condannato in primo e secondo grado, ma poi la stessa procura aveva fatto ricorso in Cassazione perché a suo giudizio, a giudizio della procura, mancavano alcuni elementi. Insomma, la legge non era chiara. Ebbene, la Cassazione, la quinta sezione, si è espressa, lo dico per i tanti radioascoltatori che abbiamo, avvocati, penalisti e comunque persone vicine al mondo del diritto e quindi saranno interessati, con la sentenza 36.884, lo ripeto, la sentenza 36.884 ha detto effettivamente c'è una grande violazione dei diritti, della dignità umana, ma non può essere condannato questo medico. La signora, oggetto delle attenzioni da guardone, diciamolo come va detta, di questo medico, potrà soltanto chiedere il risarcimento del danno in sede civile. A me sembra una cosa francamente ridicola, che apre il campo anche, diciamo così, dei comportamenti veramente scorrettissimi da parte, non dico dei medici, categoria degnissima, ma delle persone, dei professionisti che tali non sono, quindi fossero medici, fossero dentisti, e perché no, fossero anche avvocati, notai, eccetera, eccetera, eccetera. Per parlare di questo io ho due graditi ospiti. Il primo è Antonio Panti, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze. Buongiorno Panti. Buongiorno. E l'altro è Giuseppe Busia, che come voi sapete è un esperto del Sole 24 Ore proprio in materia di privacy e diritti della persona. Buongiorno Busia. Buongiorno. Allora, io direi di partire da Panti. Lei conosceva questa notizia e come la commenta? Premetto proprio che io questa notizia l'ho appresa leggendo La Nazione, cioè non avevo la minima idea, perché non era stata pubblicata sul giornale né la procura ci aveva trasmesso nessun atto, alcun atto rispetto a questo fatto, a questo procedimento giudiziario, per cui mi sono attivato immediatamente, come del resto facciamo sempre, il Consiglio dell'Ordine di Firenze ha sempre questa abitudine, per chiedere al Tribunale tutti gli elementi del caso, perché anche a me francamente sembra, oserei dire, strampalata, scusi, questa situazione. So una cosa soltanto, che se le cose stanno come ha descritto il giornalista, indipendentemente da tutto ciò che è civile o penale, l'ordine interverrà e direi anche con mano non leggera, perché è semplicemente una cosa che io definisco veramente folle, fuori del mondo, assolutamente, ecco. Ecco, che un medico possa riprendere la paziente mentre ad esempio si spoglia, perché è doveroso e lecito che questo accada, soltanto per uno sculto della cassa toracica, beh, a me francamente sembra una cosa veramente incredibile. Però le chiedo, Panti, lei dice noi ci siamo attivati e questo vi fa onore, ma questo medico però era stato già condannato in primo e in secondo grado. In questa fase voi non avevate avuto né sentore né notizia di nulla. Purtroppo la legge italiana, che noi chiediamo di cambiare, lei se segue queste cose lo sa, da molti anni, e risale al 1910, non prevede, non dà nessun obbligo al magistrato. Questo è un problema di fondo. Io questa notizia l'ho appresa dalla Nazione quando ho letto di questa stravagante, chiamiamola così, certo. Sentenza della Cassazione, perché questo è un fatto anzi che è tipicamente deontologico. Assolutamente, infatti al di là, come giustamente lei diceva, dei profili penali e civili, un medico che si comporta in questo modo, ma può essere, ripeto, un legale, un avvocato, un giornalista, chiunque sia, va semplicemente, a mio modesto avviso, cacciato dalla professione, dall'ordine a cui appartiene, o dico male, Panti? All'altro, noi viviamo in un paese, come tutti gli altri paesi civili, in cui anche la regolamentazione scientifica, perché per esempio si può registrare una visita a scopo didattico, no? Certo. Si può fotografare un caso clinico importante, si può pubblicare un caso clinico oppure fare un'inchiesta epidemiologica, è protetta da leggi e da documenti del garante della privacy, l'ultimo sulle ricerche scientifiche uscito non più di 8 giorni fa, che sono di una severità assoluta e che, devo dire, per quel che mi consta, i medici applicano sempre. Certo. Anche perché è collegato col segreto professionale, con insomma aspetti millenari della nostra vita. Assolutamente. Allora, lei ha richiamato il garante per la privacy, per la riservatezza dei dati, e Giuseppe Busia ne ha fatto parte per anni, e queste cose, queste vicende le studia da sempre, dall'inizio direi. Busia, come commenta quello che è accaduto in Cassazione su questo caso fiorentino, ma poteva essere crotonese, valdostano o emiliano? Sì, è chiaro che diciamo il caso come è stato presentato, poi con riserva di vedere meglio nel merito, è un caso eclatante, però ecco, bisogna circoscriverlo, perché il giudice ha detto non c'è tutela penale, però ci sono altre tutele, c'è la tutela civilistica, ci saranno le sanzioni deontologiche eventualmente, quindi la persona, la paziente interessata potrà chiedere i danni, potrà rivalersi in qualche modo, sebbene nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, non ci sia l'applicazione di una norma penale. Però dobbiamo tenere presente perché è accaduto questo. Nel nostro ordinamento la tutela penale è un'estrema ratio, cioè si puniscono i reati più gravi, è previsto che, secondo il principio di tassatività e di legalità, nessuno può essere punito se non c'è una legge che lo prevede, che deve essere entrata in vigore prima e deve prevedere specificamente quel singolo reato. E allora come mai, le chiedo, Busia, comunque in primo e in secondo grado questo medico era stato condannato? Sulla base di cosa? Al di là del fatto che questo è un mio giudizio personale, Busia, come può non essere penalmente perseguibile una persona che filma a sua insaputa un'altra e poi magari ne fa anche un mercimonio, un mercato dei film che riproduce per se stesso inizialmente? Distinguiamo, laddove questa persona non tenesse per sé i film e invece li utilizzasse per rivenderli, per fare dei film, la sanzione penale ci sarebbe. Certo. Bisogna, il caso di specie probabilmente, però non lo conosco e faccio riserva, lui ha fatto i filmini e se li è tenuti per sé, perché laddove ci fosse una riproduzione per fini di lucro, c'è un reato previsto dal codice della privacy e la persona sarebbe stata punita. Nel caso di specie l'unica norma penale riguarda le riprese visive fatte furtivamente senza che la persona se ne accorga, però fatte nel domicilio della persona, dove la persona in questo caso invece ci trovavamo nel domicilio di chi riprendeva, cioè del dottore, per cui è un incrocio di circostanze che, visto che la legge penale deve essere, le fattispecie penali previste tassativamente, non è possibile agire con la sanzione penale, però qualunque, questo è importante, uso il medico avesse fatto ulteriore, vendendo, come si diceva, i filmini o comunque danneggiando la persona e l'avesse fatto per questi fini, allora la sanzione penale scatterebbe e c'è. Ecco. Siamo in un vuoto legislativo che giustamente, io credo, la Cassazione ha segnalato, speriamo venga colmato, così che anche queste ipotesi che nessuno si immaginava, forse il legislatore non immaginava potesse verificarsi, sia sanzionata non solo dal punto di vista civile, dal punto di vista deontologico, ma anche dal punto di vista penale. Ecco, a me sembra un grave vuoto normativo effettivamente, perché, ripeto, questa sentenza lascia le porte aperte, in attesa che venga colmato il vuoto, a delle vere e proprie pruderie che ciascuno può soddisfare come meglio crede, e lo trovo francamente indegno. Grazie Busia per il suo intervento. L'ultima parola a Antonio Panti, che ha interesse quanto soltanto noi a colpire questa persona. Le chiedo, ma quanti casi vi capitano da sanzionare ogni anno? A voi? Non mi era mai capitato. No, questo no. Presidente, l'ordine non mi era mai capitato. Questo lo capisco bene, ma, spero che sia anche l'ultimo caso, ma in genere... No, ma volevo dire due cose. Prego. Mi sembra strano che non sia applicabile le conseguenze, le decisioni del garante della privacy che hanno anche rilevanza penale. Mi riservo di leggere la sentenza. Certo, certo. Anche se lei ce l'ha già. No, purtroppo l'abbiamo cercata, ma non siamo ancora riusciti a trovarla. Ovviamente. Allora, la seconda questione, se per caso ci sentisse, vorrei invitare la signora in questione, visto che siamo a Firenze, a fare un esposto all'ordine. Assolutamente, io condivido questa cosa e tenga presente che noi torneremo su questo caso, perché ovviamente non credo sia un caso isolato. Grazie a Panti, ancora grazie a Busia, in regia Filippo Oreggi, in studio Laura Faggin. Vi ricordo l'indirizzo mail al quale segnalare gli abusi, ripeto, non personali, perché quelli non posso prenderli in considerazione. Un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Buona giornata a tutti.